voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. What, you want to learn something? Yes, I do. What, you want me to teach you something? You want to learn something? All right, here's a useful lesson for you. Give up. Just quit. Because in this life, you can't win. Yeah, you can try. But in the end, you're just going to lose big time because the world is run by the man. Who? The man. Oh, you don't know the man? Oh, well, he's everywhere. In the White House, down the hall, Miss Mullins, she's the man. And the man ruined the ozone, and he's burning down the Amazon, and he kidnapped Shamu and put her in a chlorine tank, okay? And there used to be a way to stick it to the man. It was called rock and roll. But guess what? Oh, no. The man ruined that, too, with a little thing called MTV. So don't waste your time trying to make anything cool or pure or awesome, because the man's just going to call you a fat, washed-up loser and crush your soul. So do yourselves a favor and just give up! Death may come invisible, or in a holy wall of fire, in the breath between the markers, on some black I-80 mile, from the madness of the government to the vengeance of the sea. Well, everything is eclipsed by the shape of destiny. So love me now. Hell is coming. You kiss my mouth. Hell is here. Little soldier, little insect, you know war, it has no heart. It will kill you in the sunshine, or happily in the dark, where kindness is a card game, or bent up cigarette in the trenches in the hard rain, with a bullet and a bet. He says, help me out. Hell is coming. Could you do it now? Hell is here. See the sterile soil, poison sky, yellow water, final scraps of life. Bringing new tears. blanket around you, there's nowhere as safe. I'm leaving this place, but there's nothing I'm planning to take. È vero, come ho letto in giro nell'ultimo periodo, sia sulle riviste di settore che su internet, tra forum, blog e altro, che l'ultimo album dei Bright Eyes non sia completamente riuscito. Ma a me basta che sia parzialmente riuscito, cioè che ci siano delle canzoni che loro siano completamente riuscite, che siano quasi perfette, come perlomeno io, con tutta la mia soggettività, giudico il pezzo che ha aperto questa seconda parte dell'ultimo volume della settimana di Eclettica. La voce è quella di Giulio Caperdoni e la radio è Rock FM. Tutti i giorni, fra le 19 e le 20, mi sembra anche il momento giusto per ricordarvi che l'indirizzo di chi vi parla è giulio@radiorockfm.com, da utilizzare per scrivermi direttamente oppure per iscrivervi alla lista nera di Eclettica. Ed ora si prosegue con ritmi che io ritengo assolutamente estivi. Lui è di nascita germanica, però da quando ha 17 anni dichiara di andare sempre in Giamaica. Probabilmente questi viaggi gli hanno fatto bene. Si chiama Gentleman. It's not about class, color or races. Let's get around and see different places, yeah. Put a smile on those distant places. Wipe away your sorrow without chasing. This is not about class, color or races. Let's get around and see different places, yeah. Put a smile on those distant places. Wipe away your sorrow without chasing. Joy, boy, let us all vibes, set your voices. About class, color or races. Let's get around and see different places, yeah. Put a smile on those desolate faces. Wipe away your sorrow without chasing. Obedience and courage to a higher purpose in life, yeah. Conscious of the knowledge that exists in all the words of the wise. Silence and devotion must be learned for the oneness connection that we earn. The prayers of the faithful so concerned that the tide it might be turned. It's not about class, color or races. Let's get around and see different places, yeah. Put a smile on those distant faces. Wipe away your sorrow without chasing. This is not about class, color or races. Let's get around and see different places, yeah. Put a smile on those desolate faces. Wipe away your sorrow without chasing. I know really matter if your accounts are froze, and I know really matter if your friends are foes. To be yourself in a diggity and so life goes. Righteousness, man, I feel composed. Yeah, yeah, yeah. It's not about class, color or races. Let's get around and see different places, yeah. Put a smile on those distant faces. Wipe away your sorrow without chasing. Look at it. Joy, boy, let us all abide. Let your voices be heard to make a joyful noise. Joy, boy, full time not realize. The truth of babies also recognize. Okay. Do not see, say we are stepping on the footsteps of Jah Jah. Hear the Eden matter about class, color or races. Let's get around and see different places, yeah. Put a smile on those desolate faces. Wipe away your sorrow without chasing. Secondo il racconto di Nana, il giorno in cui era nata Mariam, nessuno era venuto a darle una mano. Era una giornata coperta e umida della primavera del 1959, diceva, il 26esimo dei 40 anni di regno di Re Zahir Shah, trascorsi per lo più senza grandi eventi. Diceva che Jahil non si era dato la pena di chiamare un medico, anzi, neppure una levatrice, anche se sapeva che durante il parto il jin sarebbe potuto entrarle in corpo e procurarle un attacco. Era rimasta stesa tutta sola sul pavimento della colba, un coltello al fianco, il corpo madido di sudore. Quando i dolori si fecero forti, morsicai il cuscino e gridai sino a perdere la voce, ma nessuno venne ad asciugarmi il viso o a darmi un bicchiere d'acqua. E tu, Mariam Jo, non avevi nessuna fretta. Mi hai costretto a rimanere sdraiata sul pavimento, duro e freddo, per quasi 2 giorni. Non ho mangiato e non ho dormito, mi sono limitata a spingere e a pregare che tu uscissi. Mi dispiace, Nana. Io stessa ho tagliato il cordone che ci univa, ecco perché avevo il coltello. Mi dispiace. A quel punto, Nana faceva sempre un sorriso stanco e carico di significato. Una persistente recriminazione o un riluttante perdono, Mariam non avrebbe saputo dire. All'epoca non le accadde mai di soffermarsi a riflettere su quanto fosse ingiusto chiedere scusa per il modo in cui era venuta al mondo. Quando finalmente ci rimuginò verso i 10 anni, Mariam ormai non prestava più fede al racconto di Nana. Credeva piuttosto alla versione di Jahil, secondo la quale, anche se lui al momento era assente, aveva dato disposizioni perché Nana fosse portata all'ospedale di Herat, dove era assistita da un dottore. Era stata sistemata in un vero e proprio letto, pulito, in una stanza luminosa. Jahil aveva scosso la testa con aria desolata quando Mariam gli aveva raccontato del coltello. Mariam arrivò anche a dubitare di aver fatto soffrire sua madre per 2 interi giorni. «Mi hanno riferito che in meno di un'ora tutto era finito», aveva detto Jahil. «Sei stata una brava figliola, Mariam Jo. Anche al momento della nascita sei stata una brava figliola». «Ma se non era neppure presente», aveva commentato Nana con disprezzo. «Era andato a Takht e Safar a cavalcare con i suoi adorati amici». Quando l'avevano informato che aveva una nuova figlia, secondo il racconto di Nana, Jahil aveva alzato le spalle senza smettere di accarezzare la criniera del suo cavallo ed era rimasto a Takht e Safar per altre 2 settimane. La verità è che ti ha preso in braccio per la prima volta quando avevi ormai 1 mese, solo per darti un'occhiata, notare che avevi il viso lungo e restituirti a me». Mariam, alla fine, non credeva più neppure a questa parte della storia. Sì, Jahil ammetteva di essere stato a cavalcare a Takht e Safar, ma quando gli avevano dato la notizia della sua nascita, non aveva fatto spallucce. Era saltato in sella ed era tornato a Herat. L'aveva cullata tra le sue braccia, aveva passato il pollice sulle sue sopracciglia piumose e le aveva sussurrato una ninna nanna. Mariam non poteva credere che Jahil avesse fatto un commento sulla lunghezza del suo viso, anche se era vero che era lungo. Nana diceva di essere stata lei a scegliere il nome Mariam, perché era quello di sua madre. Jahil sosteneva invece di essere stato lui a volere quel nome, perché Mariam, la tuberosa, era un fiore delizioso. «Il tuo fiore preferito?» gli aveva chiesto Mariam. «Uno dei miei preferiti», aveva risposto con un sorriso. Questo era ancora 1000 splendidi soli di Khaled Hosseini. Gentle grace, sweet vanished pleasure, oh, you kill me silently. Pretending innocence, but silently kill. Rip me down and cut me slow. Whispering me the sweet flesh soul. Cold, cold, cold, silently. In a dear embrace. Come to my heart, take and lilies from my grave. On a fine sunny day. Gentle grace, sweetheart infliction. Oh, sick pins in a yellow sun. Protesting innocence, but suddenly killed. Proprio bella questa The Flesh Song da parte di Juan Mordecai, il nuovo progetto che ha fatto riparlare dei Karma. Forse sono solo al secondo posto di una ipotetica classifica, ma potrebbe essere anche un primo pari merito del rammarico per lo scioglimento di gruppi che non ci sono più da anni. L'altro nome? Beh, l'altro nome è quello degli Schisma. Schisma e Karma, sicuramente grande, grande rammarico perché si siano sciolti. Però niente reunion, per favore, deve rimanere un bel ricordo, così che la penso in assoluto per le band che non ci sono più. Le reunion sono sempre un po' di tristezza. Eclettica sulle frequenze di Rock FM in compagnia di Giulio Caperdoni, che sta per arrivare anche alla chiusura di questa ennesima settimana, la numero 38 della stagione numero 13, e che prosegue andando a riprendere i Junior Boys. There's a million names to choose from. Yes. Come on, now touch me, babe. Ba-da-ba-da, can't you see that I am not afraid? Shaka-ka-ka, Lawrence is good at piano. He shall be rocking in my show. Ra-ka-ka-ka, stop. That's perfect. You're perfect. Stay right there, okay? Eclettica, stagione numero 13, settimana numero 38, volume numero 5, indice, Giardini di Miro, Frog Eyes, The Cinematic Orchestra, Marchos, Creme, Joy Cat, Bright Eyes, Gentleman, Juan Mordecai, Junior Boys, Kama. Giulio Caperdoni vi saluta e vi rimanda a lunedì prossimo, sempre alle 19 su Rock FM.